Il cristianesimo è veramente unico e particolare. Ha degli insegnamenti che non trovano eguali nelle altre religioni, come per esempio quello di amare i propri nemici. Le altre religioni, al massimo, insegnano a non far loro del male, a evitarli, ma che si debba andare loro incontro per aiutarli quando si trovano nel bisogno. È fuori da ogni regola morale umana. Che gli uomini siano mancanti verso la propria divinità è risaputo, ma che tutta la razza umana, meno come insegna il cristianesimo, meno sia colpevole fin dalla nascita e per questo degna di ogni condanna eterna, rimane assurdo per la nostra logica. Proprio perché vi sono queste strane particolarità, una affermazione molto nota dell'Apostolo Paolo si trova proprio ad essere in armonia con le singolarità del cristianesimo. Leggiamo questa affermazione nella lettera ai Galati, al capitolo 2. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Il sono stato crocifisso con Cristo è una testimonianza che può essere presa solo gratuitamente perché Cristo era morto già da anni, e uno può avere le sue profonde convinzioni, ma non cambiano la realtà. Paolo poteva essere convinto finché voleva, ma sta di fatto che non era morto con Cristo sulla croce decine di anni prima. Tanto è vero che girava per il mondo a predicare che Cristo era morto. Perciò, se Paolo si riteneva morto con Cristo, se era vero, bisognava attribuire questa verità ad una realtà trascendente, perciò a una realtà non dimostrabile. Ma a fare più effetto in questa ardita affermazione di Paolo sono le parole che seguono. Non sono più io che vivo. Quando si parla, si cerca di dire le cose più sensate possibili. Diversamente, chi ci sente ci fa ricoverare nei luoghi adatti a chi non ha il senno, altrimenti ci sopporta un po' e poi non ci ascolta più. Questo è proprio il rischio corso da Paolo, il giudeo letterato, nell'affermare di non essere più lui che vive. Come? Ma se stava scrivendo proprio questa lettera? Messo in quel momento era indignato con gli abitanti della Galazia perché volevano raggiungere la perfezione con la legge, dopo essere stati giustificati per fede. Come è possibile che lui non stesse vivendo? O Paolo sta sragionando e quindi non deve essere ascoltato? Oppure sta dicendo una verità? Che stia sragionando non è possibile perché una lettera come la sua non può essere il frutto di uno fuori di mente. Perciò è quanto mai necessario afferrare il significato dell'espressione «non sono più io che vivo». Del resto, questo atteggiamento è più che normale quando si ascolta qualcuno, il quale può anche avere le idee chiare, pur esponendole in un modo confuso. E, forse questo è il problema di Paolo, oppure nel suo discorso ci è qualcosa di profondo da comprendere. Io sono persuaso che siamo di fronte ad una grandissima verità della fede cristiana. Vivere è una normale realtà per chi esiste, è la capacità di relazionarsi con se stesso e con gli altri. Nulla di particolare, per questo ci muoviamo, parliamo, lavoriamo, amiamo e odiamo, ci rallegriamo e ci arrabbiamo, siamo sinceri e mentiamo. Tutti atteggiamenti che fanno parte dell'esistenza umana e tanto comuni da non farci più caso. Li notiamo solo quando non siamo più in grado di lavorare, di camminare o di relazionarci con il prossimo come conviene. In quel caso siamo obbligati a non comportarci come vorremmo e ci sentiamo diversi. Non ci sentiamo diversi. Però, seppur avendo il desiderio di fare una cosa, non la facciamo per dedicarci a un'altra. Anche se non ho voglia di lavorare, mi reco al lavoro ugualmente, perché è giusto e doveroso. Se ho voglia di andare forte in macchina, non lo faccio, perché prendo la multa e posso fare del male a me stesso e agli altri. La vita è composta di doveri, non solo di piaceri. Così è anche del mio comportamento. Se mi arrabbio con il mio prossimo perché mi ha offeso, vorrei rispondere per le rime, ma non posso, perché passerei dalla parte del torto. Se mi alzo di malumore, non ho il diritto di essere maleducato con chi parla con me. Ho il diritto e il dovere di comportarmi bene. Però, tali ci è un però. Sono a conoscenza di come si deve parlare e ci si deve comportare, ma non sempre ci riesco. Anzi, il più delle volte sono un fallimento, sono un binario sbagliato. Se la cosa non mi interessa più di tanto, continuo per la mia strada. Ma se inizio ad avere dei problemi morali, se il mio desiderio è quello di comportarmi bene, allora mi rendo conto di essere davanti ad un muro inaccessibile. Non ho soluzione. E a questo punto che, nel sentire il messaggio del Vangelo di Cristo, sono interessato. Gesù Cristo dice che io non sono assolutamente capace di compiere ciò che è giusto. Sentenzia. Che non sono in grado di scegliere ciò che piace a Dio, e per quanto mi sforzi di fare il bene, compio sempre il male. Sono una frana, sono un fallito. Il bene che voglio compiere non lo faccio, ma il male che non voglio fare, quello faccio. Ho bisogno di un totale e radicale cambiamento mediante il quale diventare in grado di fare le cose giuste. Ma ci vorrebbe una capacità soprannaturale, che io non ho. Meno male che il messaggio di Cristo parla proprio di questo. Dio ha promesso a tutti coloro che abdicano la loro volontà a Cristo di prenderli in parola e, da quel momento, non avendo più la loro volontà perché vi hanno rinunciato spontaneamente per amore, Cristo diventa la loro volontà. E questo a cui Paolo si riferiva nel testimoniare, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Paolo aveva rinunciato per amore a esprimersi normalmente nella vita, aveva rinunciato a esprimere i propri sentimenti negativi e corrotti, per compiere il volere di Cristo. Cosa vuol dire questo discorso? Vuol dire che egli non rendeva pan per focaccia, o come disse lui stesso. Ingiuriati, benediciamo, perseguitati, sopportiamo, vituperati, esortiamo. 1 Corinzi 4.12. Questo significa il non reagire agli impulsi naturali, che si sollevano normalmente durante la giornata. Quegli impulsi o quelle reazioni, che sono normali tra gli esseri umani. Se uno mi ingiuria, è normalissimo, anzi molto umano, che io renda l'insulto, o perlomeno, che dalla mia bocca non escano parole positive nei suoi riguardi. Mi è insultato, vada per la sua strada, invece no. Se qualcuno mi insulta, se la volontà di Cristo regna sovrana nella mia vita, non solo non ne parlo male, non solo non lo ignoro, ma addirittura mosso dall'amore di Cristo prego per lui, che Dio sia misericordioso nei suoi confronti perché, come è scritto, egli fa splendere il sole sui buoni e anche sui cattivi. Qualcuno mi perseguita, mi tormenta, vuole il mio male. La prima reazione è quella di indignarmi nei suoi confronti. Chi è che gode nel soffrire? Il dolore ingiusto provoca una giusta irritazione. No? Eppure se il volere di Cristo ha preso possesso della mia mente, lo sopporto. Attendo il momento nel quale Cristo gli aprirà gli occhi per vedere com'è spregevole il suo comportamento davanti a Dio. Ma questo è pazzesco, si dirà. Come posso reagire in questo modo? Quando dentro di me ogni sentimento e ogni impulso è esattamente il contrario. È vero, il problema esiste e, volendolo ignorare, si è peggio di uno struzzo quando è in pericolo, il quale nasconde la testa nella sabbia. Ma, come si detto, se io non ho più una mia volontà, se, come dice la scrittura, io sono morto, cioè totalmente privo del diritto di ottenere ciò che configura la mia esistenza, cioè onore, gloria, benessere. E se Cristo con la sua volontà domina la mia natura sbagliata, va da sé che al male, io risponda con il bene. Come se io trapiantassi in un gatto meno il nemico acerrimo dei topi, meno uno spirito di altruismo. Quando vedesse un topo, avrebbe subito il desiderio di cacciarlo, di prenderlo e di mangiarlo. Ma lo spirito di generosità infuso in lui farebbe opposizione ai suoi istinti naturali di gatto. Con questo non vuol dire che il gatto non cacci mai più un topo, perché tutto dipende da lui. Se coltiva il suo desiderio di mangiare i topi, caccerà i topi, ma se avrà, nel profondo del suo essere gatto, il volere di amare i topi, tenderà e ascolterà lo spirito nuovo infuso in lui e, invaso da questa nuova tendenza, si comporterà adeguatamente. Non è stata la sua natura di gatto ad essere buono con i topi, ma il nuovo spirito infuso in lui. Così è del cristiano. Quando compie il male e le sue vendette, non fa altro se non seguire la sua natura malvagia. Il bene è tutto ciò che è gradito a Dio, invece è Cristo che lo opera in lui. Questo modo di comportarsi è proprio da alieni. In genere gli alieni sono raffigurati come esseri simili a noi ma non uguali, e perciò hanno comunque una testa, braccia e gambe. Così appare il cristiano agli occhi dell'incredulo. Quando perdoni colui che ti ha fatto del male, sei guardato come se tu avessi due teste, mentre se rispondi al male con il bene, ti ritengono non normale. Se, dell'ubbidire alla volontà di Cristo, ami i tuoi nemici, benedici coloro che ti maledicono, fai del bene a coloro che ti odiano e preghi per coloro che ti maltrattano o ti perseguitano, per l'incredulo non ha senso e non è comprensibile. Ed è normale, una mente naturale non può comprendere una mente rigenerata. Purtroppo, anche chi possiede una mente rigenerata può non comprendere chi agisce per lo Spirito di Dio, perché occorre valutare ogni cosa con la mente di Cristo. Questo è il pericolo di chi ha creduto e accettato Cristo una volta e per sempre come suo personale Signore Salvatore, ma poi continua a alimentare e lasciarsi guidare da una mente non rinnovata. Ciò che sfugge a molti credenti è che per entrare nel regno di Dio ci vuole un attimo, come occorre un attimo per nascere e entrare in questo mondo, ma per vivere da cristiani meno per realizzare, cioè non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, occorre tutta la propria esistenza terrena. Quando Gesù disse perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la ritroverà. Matteo 16:25 voleva dire proprio questo. Il non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Altro non significa se non rinunciare volontariamente ai tuoi diritti, per lasciare spazio ai diritti di Gesù. E i diritti di Gesù sono quelli di compiere nella tua vita tutto ciò che a lui piace. Per prima cosa, egli vuole amare tutte le persone per le quali è morto in croce. E come il suo amore è stato disprezzato e incompreso, il profeta Isaia dice: noi lo ritenevamo colpito da Dio, così non pensare e non aspettarti di essere compreso. Tanto è vero che i primi cristiani erano ritenuti come tanta spazzatura inutile e, anche, una setta. Occorre molta forza per amare e non vi è altra benefica e inesauribile fonte che quella espressa in seguito da Paolo. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questo è il punto di partenza e di arrivo per ogni vita cristiana. Cristo ha dato se stesso per me. Con un amore di riflesso, il cristiano tiene gli occhi fissi su Gesù, l'agnello che ha tolto il peccato del mondo, e lo vedrà come tale, secondo le profezie, meno anche per l'eternità in cielo. Per questo, il più grande obiettivo e onore del cristiano è quello di morire, per lasciare vivere Cristo e la sua volontà nella sua vita. Meglio essere pazzi per gli uomini, ma essere saggi per Dio, non ti pare? Ellero.